sbagli! Capisca! Che te tu? Dammi tu sì, giovani! Sì, quanto dormi, giovani! Giovani! Che chiede? Dammi tu sì! E mezzo! Svegliati, svegliati, giovani! Ah! Svegliati! Che sono le sette! Ehi, ecco è chi ce l'ha! Dormitosi! E che anziano, sentito là! Sto te, tuffo, dormitosi! No, sono qua, e tu? Che Maria, mormito! E io? Mormitosi, io ne mangio! Eia! No, io me stavo facendo la barbetta! Fatti la barbona che è meglio. Ah, sta più finita la barba. Fatti Luca e poi. Mi sono appena bruciato, l'ho vicino alla stufa, mi stavo asciugando. Ho appoggiato la gamba, ho toccato il tubo, perché ho messo in diagonale, ho messo con brucia duranca. Lo sa te, finita rimane la bici attaccata al tubo. L'altra volta mi ha rimasto una cosa appoggiata al vetro, il sacchetto, la fusi, ho portato due bugelli lì, la plastica attaccata a rumore, il sacchetto del petto. Sì, anche a me è capitato sopra però, sopra. Oh, al vetro, l'ho portato, come io, l'ho fatto, lì più dopo, l'ho portato una cosa in acqua, poi... Ma questo come fanno tutti, lo fa anche Marina, ci mette la plastica dentro. Lo so. Ma secondo me, io mi ho messo l'alcol adesso, ma secondo me mesci la bolla, va. La bolla d'accompagnamento mesci. E ti accompagna la bolletta con l'acqua. Vero, Gigi Mari? Abbassami il capo. Ah, la Zucchi. Io non che ero imbiattato i grigi, io sono i garage. Speriamo non era buia, come te l'altra. Luca. Cosa hai piazzato? La griglia che c'è giù nei garage. Giù c'è una grappa, no? C'è un bozzetto per raccogliere l'acqua. L'altra volta l'hanno messa, si occuperà da lì lui e qui. Spara nel treno qui là. Ferro. Sì, si va a carità. Una vagogna brutta qua. Proprio la gente era famica. Mi ha proprio figurato a boccarsi la roba con lui, la grigliano guarda, lo sai che mi sa, vuoi boccare la mattessa, e ancora ne dirigo in piazzata, e togliamo la valla, voglio la giorno salzata, si mette la giudizia a salzare. E non è che se la saldano o la rubano, o praticamente la devono saldare, mettono un paio di punti di saldatura lì ai fianchi, no? È un domani nella bocca, nemmeno che se ne cani la moletta, allora sì. Ehi, l'altra volta l'hanno piazzato il centrale e poi stanno piazzando ai. Spara il treno per la. Gio Maria, per carità. Forse l'abbiamo salata perché ci avevano il gruppo elettrogeno. Sicuramente sì. Sì, vai, la paesella si farà due tutti. È una zona un po' così, non è molto controllata. Io anche se mi affaccio e guardo, se vengo gente strana, se ne vedo troppo che si vuole avere di qua a piano. E poi già si manda, non puoi camminare, se ne manca, non se ne manca un capo e fare le domande. Non so. Prima sotto i garage andavano a farsi, proprio all'ingresso del garage di Marina. Sono qua un po' di voce, tutto pieno di siringhe. Però ho notato che da poco sono sceso, non stanno più andando a farsi lì. Qui erano di più prima, adesso ogni tanto ne vedi uno, due, tre, un pezzino, adesso già a calato, se no prima, i siringhe si sono rampati dai. A busto! tutto più rispetto, zero, zero sotto zero. Oh, anche se molte volte mi trovavo facendo. Per un idea, chi tu non è, io la raccolgo e la butto nel contenitore della spazzatura. Di tanto non è, di tanto, ognuno si dice chi non è detto. E chi ci ha largato, il babbo Rasta. Allora la gente dice no, a vedere, un bene, la figlia se ce la butta, se ce la lappa, la carrina. Ma un bene se non rivede, ce la la carrina. Papiri, tracce, golfi, tutto. Un altro compagno pare che abbia incarnato un poco, gli ha venuto a poco di zanzi, che schifo. Perché fanno queste cose? Non so manco io, senza... Cioè, si sono martini proprio rimani dentro, non si rendono conto. Da poi non per riuscire da chi si l'ha fatta più sopra di lunato, in fronte. E la vena di chi si l'ha fatta? Sarà di capo. Ma una donna? Aspetta il telefono. Ehi, prende il valpesce, era tutta brutta male, tutta brutta, per carità. Ciao Mari, svegli. Da, sono dormito. Ehi, per carità, vai da vita, vai. La carriola, più, a pulire il pittore. Cuglio venti, senti. Una mucca svizzera è, ciao Mario. E chi? La regretta che si sta abbassando a tre pittore. Una pittorra. Una carriola di più. La sfoggina. A mamma sano andà a farmi la raggi. A te viene quasi una pulla. Dannai sangue tu, vai a darlo, vai. Cosa? Dannai sangue tu, vai a darlo. Un paio di litri di mirgava nei domani. Agu, porco! E lui? Mia mamma l'ha già fatto. No, mia madre. Se va a fare la mamma, se va a andare lì. 10 maggio. 10 maggio? Sì, cioè, il 10 all'altro mese, il giorno lì. Già abbiamo diabetologo, gli analisi ha già fatti, io ho ritirato i fogli, insomma. E poi il 17 alla visita per il pacemaker. Farmacia, sì, così ho fatto io, però loro si sono spiegati male. ci voleva solo la quella della mattina e basta. Infatti qua l'abbiamo portato. No, dalle 24 ore di tutta la più la notte e domani la e la riduce per una puntata la fa ai combattere a tra poco andiamo in tre la fine tra e qui adesso per male a mezzo dietro la bocca tra poco ci vediamo qua e per un capoggio quella è per 24 ore da quanto ci sta e la città che è capoggio un po' come tra per controllarti vedere se sei a posto. Ah, mamma ce l'aveva giallo paglierino le urine. Grazie. La boccetta si è buccia piena. Tu fai quella di 24 ore. Poi comanda prima andare a cosa a fare l'analisi. Gli succhi gli succhi hai fatto. E gli tieni una boccetta. Ecco, sai che altro venne il subitore che tu non hai fatto e gli hai fatto un tiro di domanda, no? Quanto ha fatto? Era solo 200 grammi, 200, 500. Però tu ti ribocci una boccetta solo, capito? Ti ribocci, non bucciate direttamente l'ampulla, non fare, no, non c'è bisogno. Perché noi lo fanno sempre, capito? Ci domanda quanto li abbiamo fatto, però le possiamo solo una boccetta noi, lascia se la lampemo, è normale, no? Vabbè, io vado a fare la spesa, se ci siete a dopo. Ciao! E io? Prima non più di un rubicciato. Sono rubicciato di rubarsi il due a cavare con il capo di ministra e si butta. Mi allucca, ma una cosa mi stai scendi. Sì, dai, te la sto ascoltando, che sto facendo, ciao. Ehi, aspetta, ti mando una foto. La canna su Kubi Candy. E cos'è il tuo? Posso rimanere? Il profumo di casa, grazie a... Senti, Giuliani. Ah, il papo di Santore, quello che si faccio avanti. La già rubata si è tutto avanti, tu, e lo guarda. E te. Chi è, grazie? Cosa c'è? Cosa stai facendo? Sto parlando verticale con una persona qua. Ma è tutta la mia storia. E tu, il 16 mai? Poi passa il 27 quando arrivi, però bene. Vabbè, bello bene, va benissimo, dai. Aspetta. Sicuro, sicuro. Buongiorno signor Baccisio, buonasera amici. Facciamo le voci però, ti voglio qui dare a cantone le voci. Buonasera anche a lei. Certo, cos'è la voce? Perché forse ti sta arrivando? Ma fino a tutti, noi sempre a poco scala. Certo, penso un po' più tanto il minorito, già 5 centimetri grande potente. Piccolo ma sincero. Grazie, avanti, buonasera. Sicuro, sicuro, acceso 23. Hai macchina scritto? Sì, sto aspettando la signora che si fa la mia figlia e sto andando a casa. No, ho capito, sto aspettando che scenda. Anda bene mela. Un lungo all'altro il gioco. Da un lungo all'altro, che è la cosa? Sì, accompagnare le mie nipote a San Giovanni ai casi. Ho fatto una cosa di scolamento, mi ha fatto una partita, ma la domanda è ripetuta. Non esce così. Non esce e non si sente. Non so se qualsiasi sede, qualsiasi sede, non mi esisto. Non vuole parlare, vuole stare muto. Allora c'è qualche problema che non va. Infatti, deve essere qualche problema in antenna, perché ho cambiato radio, nulla da fare, la stessa musica di quello là. Ma devi stare attento anche che non ti bruci i finali, mi. Non sto usando solo in ricezione. Ma non riceve, sento, a te ti sento oltre sopra. Ehi, a quattro! Senti che la stiamo, è a tutto volume. Ehi, allora, qualcosa all'antenna c'hai. Infatti, è roba di antenna che non va bene. E quindi, aspetta che li faccio passare qua. Ma se non sa di fare di maniera, già va bene lo stesso. Ascolto quello che ascolta, quello che non ascolto, pazienza. Ehi, io sono qua, io parlo con tutti e due, mi. Graziano ne ha uno solo, o mette uno o mette l'altro. No, oh, ce li ha tutti e due, ce li ha, se ti ascolta da una parte o dall'altra. C'è tutti accesi, Marti, a 27 TMR. Graziano, buonasera. No, la 27 è diventato soldo il mio, il baracchino. Ho cambiato radio, è sempre lo stesso, avessi si è cauto l'antenna. La valvolina controllata nel portavalvo non esce. No, non esce, mi guarda, è il 27, adesso ti chiamo il 27. Aspetta, è il microfono, c'è solo la rosena, cazzo, casino. Guarda, adesso 27, ti sto chiamando il 27, ma non mi ascolti. Prova! A te, dopo, dove stai? No, siamo sulla 27, sta provando macchina adesso. Ascolti sulla 27, mi ascolti sulla 27. No, Bacchino, non neanche di segnale stai uscendo, nuda, nuda. Non te lo sforzare troppo, che sennò bruci il finale e bruci così. Te l'ho detto, non c'è antenna, deve essere il vento di ieri notte portato giù l'antenna, io non ho anche guardato. Deve essere te ne l'ha buttato giù, te ne l'ha buttato. Vabbè, domani vediamo. Domani la vediamo di giorno cosa è successo. Secondo me poi facciamo l'operazione pari. Se salgo presto, Bacchiglia, da accompagnare mio nipote da San Camillo, ci sentiamo. Ehi, sono qua, tanto... Adesso da casa, capito? E se esco già me lo porto presto. Vado domani mattina, devo scendere... Alle 9 devo scendere a San Camillo, devo scendere a accompagnare mio nipote che deve passare una visita. Poi, secondo a che ora ne salgo, ci sentiamo. Ehi. A San Camillo la visita con il nipote, già è vicino. Già è vicino come strada. Purtroppo deve passare una visita. Deve passare. E non so a che ora ne esce. Sono lunghi, Non so perché sono lunghi. Ma se pietà fanno. Aspetta che metto l'auricolare. Io devo stare a mantenere a noi in mano. E l'operazione è fatta. Che cosa gli hai fatto, Bacchi? Ho messo le cose, l'auricolare per mantenere la radio in mano. Stai parlando con l'auricolare, è più forte, ti sento anche. Questo c'è così il microfonino in bocca. Ti sento anche più forte, ti sento, e ti sento anche benissimo. Anda. Ehi, ha sentito Graziano, stavo chiamando sulla 27, ma è inutile che chiami, lo sento più. Sette. A Graziano. Ehi, a più proprio sulla 27, no, te l'ho detto, non c'è ricezione, non c'è trasmissione, non c'è ricezione, non c'è nulla. Vuol dire se ne scende l'antenna, o se si è staccato il filo del PL, controllato l'hai. Oh, adesso non controllo nulla, grazie a, domani se ho tempo lo faccio. Anzi, se mi posso muovere. Va bene. Quanto è interessato, Edu, però? Oh, vai da un po', quanto è interessato? Domani la guardiamo tutto, se l'hai caduta l'antenna la rimetto su, che lo stilo. Ma io sto pensando sia proprio il vento che ieri notte me l'abbia buttato giù, l'abbia coricata. Non c'è fatto attenzione, sono salito sul terrazzo. Sicuramente ne l'ha buttata giù col vento di ieri notte, tanto non era bugovossi. Oh, ieri notte fischiava, ne fischiava, infatti senz'altro le ha fatto qualche scherzetto. Certo, andiamo via, andiamo. Il suo vento è ancora così. Con l'aria fredda, Buru. No, c'è freddo fuori, non è roba da fare in terrazzo. Ma si vede l'antenna. A tempo buono si guarda. Infatti, a tempo buono si guarda. Ma la antenna, vai sulla 27 e va a vedere. Se tu vuoi andare, porto l'antenna calamitata dalla garage, quella della macchina. Infatti, è così. La metto sul filo da stendere e via dicendo. Già esce lo stesso, se vuoi uscire, se no potrei uscire i piatti. Fa così, Bacchi, con l'antenna calamitata esci. Eia. Graziano! Eia! Domani ha messo tempo brutto, rompita il televisore, neve, anche sabato, neve, vento, freddo, buffoni, uragani. Ah, aspetta, allora non facciamo più nulla, grazie. Allora si può manco mangiare più. Allora, domani si esce con trappesi, due cartoni da 50, una dritta e una sinistra. È vero. È vero, sì. Ehi, ehi. Ciao Luca, buonasera, avanti. Buonasera a voi, buonasera. Anche a Sorso. Graziano è a Sorso, avanti Tore. Caputo, caputo. Bacchigio, non lo senti a Gian Maria, Bacchigio. Non ti senti manca l'UBMR, Gian Maria, Bacchigio. Non lo sento per niente Gian Maria. Ma col gommino sta andando, Grazia. Col gommino non ti sente, manco con l'antenna. No, col gommino, con l'antenna non mi sente. Ti ha messo le cuffie. Non mi ascolta con l'antenna esterna. Aspetta. Ti ascolto bene, Bacchi. Come riesci, mi ascolta. Ma deve essere col gommino lui, però. Lo sa già. Non ti sente perché il salone è freddo di là. Capito, Bacchi? Ah, in salone. Ho capito, allora con l'antennino non mi ascolta. Andà bene Meda. Avanti Tore, ci sei. Tore è andato a fumo. Grazie a Tore è andato a fumo. A fumo? E beba. Sì. Luca, tu la 27. Gianluca, no. Grazie, ma tu bene mi ascolti. Ho peggio degli altri giorni. Bene, bene. C'è il vento che si è messo a soffiare anche su quell'antenna, no? Arrivi bene! Bene. Chiama a Squalopinna. Sono qua! Mi sono allontanato un attimo perché mi hanno chiamato. Ah, visto, già c'è la squalo di pinna. Capito, questa pinna squalo non si sente mai. Tore, ma cos'è? Non mi senti neanche tu in QMR? Io ti tengo forte e chiaro, ti sento. Tempio del Recoaro. Va bene, c'è Luca anche qua, che è in ascolto. Lo sta cucinando o sta facendo o mangiando qualcosa? Luca, avanti. No, sto giocando, sono qua che vi ascolto. Ah, stai giocando. Ah, aspetta, proprio... Grazie, Luca sta giocando, non lo chiamare più per lo disturbi dal gioco. No, sono qua che vi ascolto, dai. Se mi chiamate vi rispondo. Gentile, benissimo. Avanti, grazie. Siamo andato in 27. Sì, signor Bacchi, già sono qua io. Ora sono sulla 27 e io sono qua. Ma non si sente un marino, va? Né ieri né oggi, non si è sentito per nulla. È ora di trasmissione adesso, non si vede. Sono andato a accompagnare il nipote a giocare a calcio. bello bei! Ehi, bello bei! Che è? Te non lo so, Guido, devi stare un lungo all'altro. Ma... qua ci dobbiamo sistemare un po', eh! O siamo a destra, o siamo a sinistra, o siamo a destra, o siamo a sinistra. Chi tu devi piazzare? Chi dà su di riparare l'antenna, ti dà sopra un capo e non c'ha bisogno di guardare. Tu mani, ponici di fiducia ancora l'antenna, batti. Dopo, domani, e vogliamo un po' di cantoni, grazie, un po' di cantoni la attacchiamo all'antenna. Bebe! Si vuoi un motto picco di rinfresco, fai un buco in amore, dai, a me fai una gettata. Ah, vi lascio un motto picco, pure la trivella, beh. E posso due buchi e si fia un cannao. Bebe! Ora Luca Ghibi, fisso, lupaghi, con giù i fafetti, era Luca rimane tutta la notte, 24 ore su 24, e Ghibi va a mattini, vero Luca? E allora, e vostro muri di piatti in casa, andiamo in terra, tutto il vostro. Sempre vado i fabi. Fasi rubare a fulmine, come ti fasi a fantucci. Ma devi venire pure tu, poi dammi una mano. Scusa, ogni tanto devi venire a dammi una mano, no? A te ne rubare un mio. No, io ti dico. E tu mantieni. E allora? Poi passa Luca Flippero e di cui è benteggia. Ah, io ti cubica. Grazie, ma ci si rubò il caro vento, caro paga. Bebe. Pensa a me, oh, non vedi subito, vero? Bebe. Avanti, Bobo. Ma chi? È possibile. Ciao, ma chi, ciao. Ciao, non ho capito chi sei, però. Sono distratto, ti ripeti? Perché stai uscendo troppo forte, per quello che non ti sento bene. Ciao Bachi, a sei volti, alla grande, ciao Tone e Graziano. Tutta la sera delle gatti e Graziano. Ciao Giulio, buonasera. Ce l'avevo già visto quel coso che mi hai mandato. Ma non hai fatto la ginnastica come hai fatto quello? L'ha giù visto, ne avevo di meglio, solo che non te lo mandassi l'altro giorno. E chi tu ha fatto? Chi tu ha fatto? Bugginagliata, visto là? Grazie, non intendi? Ehi, già l'ho visto. Quello del gatto, ho visto là. Ehi, già l'avevo visto anche quello. Ehi, allora sei ben informato, là, ho capito. Non te ne mando più, vai, sono malissimo. Me ne posi che mi manda un bene, digli si cose così. Oh, hai il burzecca, ma da dove vedi, li trovano queste cose? A me me le hanno mandato, non è che l'ho trovato io. Da dove li trovano, non lo so, forse da computer. No, su internet, anche su Facebook, o cosa si chiama. Anche lì li trovi, quando io stai scorrendo, no? Già ne trovo io lo stesso. Vabbè, io non ne ho mai cercato, dunque non lo so. Va bene, ciao Tore, avanti. Buonasera Giulio, caspita. Graziano, è così stasera, bisogna sistemarlo un pochino. No, siccome gli ho mandato un messaggio su WhatsApp, no, di un uomo tutto quanto snodato, che fa il fatto di gomma, una cosa impressionante come si muoveva, come si piegava, basta vederlo, faceva anche impressione, ma che cosa va, tutti non si troncate, ma... boh, non lo so, vabbè, mandaglielo a Tore, grazie a quel coso. Se, no, se lui non l'ha visto, prova a mandarglielo. Avanti, Bachi. io giù. Allora giù, interrogativo. Finito col lavoro. No, ancora no. Piano piano. No, adesso abbiamo finito tutto l'impianto del bagno, adesso c'è da pavimentarlo il bagno e piastrellarlo. Il bagno è finito, tutto l'impianto, pure la doccia giù un buco, tutto canto giù un vato. Hai fatto una cosa di lusso adesso allora, è benissimo. Anda bene. Dunque Antonello non è ancora da va. E allora lo mando in ferie, lo mando. Allora attacchiamo con un legno, adesso attacchiamo con legno, porta e sportellini del soppalco eccetera, capito? E sta lavorando il legno adesso, capito? E beh, prima di tutto bisogna farci gli infissi e chiudere. E appunto adesso devo fare quello, e dopo l'ultimo di tutti il coso, il pavimento. Sai come lo sto facendo il pavimento? Ho preso il trapano, il tassellatore, no? E il mattone li ho tutti quanti mezzo bucati, no? Ma in un attimo sai quanto ne faccio? Metri quadri in un attimo, proprio in un attimo, proprio per attaccare bene il... E gli do solo collante H40, gli do, passato con la valetta americana. Tanto poi ci devo mettere il parquet, ci devo mettere. Quando c'è il mollettore sotto, il parquet, interessante che sia liscio, per evitare quei buchetti che c'erano, capito? Vuole liscio, se no è il caso di Valdavalda, c'altro. Ho capito. E all'ultimo quello che bisogna fare, se si rovina. L'ultima cosa è quella lì da fare. Sì, l'ultima cosa, quando ho finito il soppalco, perché per il soppalco uso quel ponteggio, no, che ho per piazzarlo, sicché mi viene male se no con la scala. Invece, visto che il ponteggio è sempre piazzato, e uso quello, una volta che è messo quel, so che ho fatto un soppacco, lo posso anche smontare ed è libero il locale, capito? Ehi, piano piano sempre facendo però, piano piano è al bar, no, piano piano è lavorando. Ok, avanti Tore. E allora signor Bacchi, che aspetta, bisogna lavorare, bisogna, non bisogna perdersi, no? Giulio non vuole lavorare, Giulio se vuole andare al bar a prendersi il caffè invece di lavorare, ma passo io a controllare adesso. Quando non lo trovo, 100 euro di multa. Che andiamo, andiamo. No, la prima cosa è il panino, quella è la cosa più importante, non ci sono le forze sufficienti per poter lavorare, ci mancherebbe un bacchino. Oh no, troppo leggeri siete, tu e Antonello state marcando male, a voi due vi sistemo io. Da domani se non vi trovo al lavoro 100 euro, e passo li voglio. E noi te li diamo, che problemi ci sono, ma figurati. vabbè, se non vai in campagna passa, già siamo lì. Così almeno facciamo due risate. Vai Graziano, si è caduto dalla gandria. Graziano è passato i 27 e tu fai un saltino che un salto che dà. È una gazzella, brinca. Un tiribico panzoso, sempre brinca da un punto all'altro. Boh, non è possibile. No, non c'è nessuno il 27, sul 23 non c'è nessuno. A meno che non è andato sul 10, ma non vedo nessuno, ma cosa lo dice Zanzula? Adesso non lo so. Vai tu! Bisogna far così. Chi non lavora non mangia oggi. Anda bene, anda. Andiamo bene, andiamo, caspita. Vero signor Bacchi? Ehi, è vero. Domani vediamo un po' come vanno le cose. Cioè, migliorano o peggiorano? Già migliorano, Bacchi, già migliorano, vabbè, già lo chiedi via. Quando le persone sono brave lavorando, non vanno da là, solo miglioramenti si vedono. Sì, e l'idraulico chi era lì, Grazia? Ma Giulio. Tutti e due, ci mancherebbe, capita, proprio questo. Questa è la cosa più facile, ma noi, figurati. Ma tutti e due ieri, in società, andava bene. Va benissimo allora, giù. Tutti e due, allora, anzi ti dirò di più, oltre alla doccia abbiamo fatto anche la predisposizione per un lavandino poi fuori dal bagno, se puoi immaginare. Insomma, poche parole, è diventato un monolocale, vedi? A me pare che tu devi fare un buco di romuro e ci accusire a fare un altro bagno. No, magari me la possiamo dato un cucini, ma non me ne date. Quello è di un altro proprietario. Ah, è di proprietario del cortile, non è condominiale. No, è del proprietario, del magazzino, di quello che vende i pesciolini, gli acquari, no? È il proprietario quello lì. E poi ce l'ha quello dei pesci, ce l'ha il cortile. E basta a Davide, dargli un coso, una mela, e se non si chiede la mela tu fai il muro. Ma cosa Davide, state sempre zecchini, cose cinematografiche al computer, ogni tanto me ne manda uno, e da poi io li mando a Graziano. Tu a Graziano lo stai viziando, a Graziano. Ma no, non le sa apprezzare lui questi filmini, capito? Dunque no, non ne mando più. Ui, vai tu. Sì, un Graziano già sta attenti, ma che viziato è tu. Ah, tu una cosa che pulia, ne la prendi un poco da brutto, appena che già sei sulla radio, vira e tu, vira. A Bozza, a Sicchirri e Fennicandari, cosa pulia? Ah, boh, non so cosa pulia. A passare la vitigine, si passa in occhio, si passa in chiedà. Ma non ti sei uscito, va? Ah, va, se puoi sta cucinare sicuramente. O meglio, a mangiare. Edo si vanta che cucina già Edo, ma non lo credo io. No, fate tutta la moglie. Edo mangia solo e boh. Lo che ho pensato io. Io ho pensato la stessa cosa. Oh, yeah. Vai, ma chi? E beh, Marino, chi fuori, ma è? Marino non si inteso né arrivare né oggi, no niente, Marino deve essere in Gattopardo, la moglie l'ha catturato, oppure un nipote si portami a giocare il nonno e sarà andato a portare a giocare, perché non si inteso per nulla, a che ora Marino rientrava, invece niente. E dopo lo sei tracchendi, e vabbè, dai. No, io arrivano sera, io non la gente sono macchio, appunto pago sairo Luca Dalesi, arrivano sera, fa vedere con Natalino, con Franco Di Sussu e con Alfredo, un radioamatore che è entrato a fare due chiacchiere sul 10, capito? E siamo stati più di un'ora parlando, un'ora e mezzo, là. Dopo è arrivato l'ora della cena e ci siamo salutati, tutto lì. Avanti Tore! Così sì, ogni tanto bisogna far vedere, bisogna, che se no si può fare nulla. Se no si arruggirà già nei microfoni. Oh, yeah. E così è. E poi se la sai me la prende di fretta il microfono, ma la buia l'ha avuto una impulsata di cosa? Di disossidante, già si è ripristinato. Se no andiamo a fare, fende così. Ma esatto, siccome è un mese senza trattarlo che su chitarrario o che sul microfono è rimasto della muffa. E allora sono le bizze e io ho lasciato la medicina e sono andato su. C'è qualcuno che ti mette la portante, Giulio? Ha detto che non ti può vedere. Senti in capaluce. Non mi può vedere così non vede l'altro, sai? Non ripiace, entrava, ma te ne ripiace bonito la portante, io. Ma se vecchia mezza annuncia. L'unica soddisfazione della vita sua che sia chissà, cosa vuoi che ti dica? Se ne piace così. Boh, andiamo bene, andiamo. Tu non mi intendi, ma bacchino, ma quando mi intendi? Poi se vai sulla posta non si fa nulla giù, si fa sul corrigore sono stati bidi. E ora una cosa, che è l'unica giù della sua vita, pure la E se che non si capisce. Ma non lo intendi io, si sente poco, la superi al 100% e torno a stessi, no, dopo pericolo. Non superi, sto preparando l'aerosol. Ehi, grazie, prepara l'aerosol alla signora. E beh, grazie, penso di sì. Ha detto che prepara l'aerosol, paghi su che pone nell'abortante. Ah, che lo fa, togli, che lo fa. Chi è che vuole entrare? Tanto passa lo stesso, faccio un picchietto. Ma è Don Rosario, che passemmo noi? La cazzo, sei! E se no che ti passi è nella di un comune, è nato! Vedi che non rimpiangi, vedi che sei attaccato a chi non riudito a chi c'ha! La caruba! Ui ui! Ma chi? E io che abbia il botto a capo di tutti gli altri, invece mi sembra che mancanti. Passalo va, so fate peggio qua. Cosa vuoi farli? Ci chi su dito non pone sotto un rullo compressore, non è meglio di quelli di chi c'è la portante. Ma pure in bocca ad un rione, così si bagna tutto il braccio. Se no te lo fai venire da te come abbassata i bialla alla mano. Pur così andava bene, fa cosa no? Tanto, che problemi ci sono? Se no mi ridemmo l'aerosol che fa di Graziano, va. Ridemmo un pochetto di aerosol. Arma così. E baciare un coso di Rudito. Ma forse Rudito si sarà entrato in lucido. Ah, non so come da di chi sa allora io. No, nessuno. Pronto! Ah, va bene la padrona! E gli blocco la trombetta! Minimo! Anda! Grazie! E oggi cosa sei combinendi? Tutta la sera posi semi! Papuzza, chi tu mi dici assente la 27? Assente la 27 e non fai un anno! Ma non hai fatto frittelle che tu periodo? Vi lo dico, è stato il PMR, ma chi c'è già vinto? A te buona piombo, un chitarrario, che mi siete quelli tutto quanto scorreggiato. Boh, io non lo so, che noi ci avremmo una volta battuti, e non battessi luogo. Ah, ma sei buttato, ma arrivi tutto loppiato, ma arrivi, ma che? Tutto un altro all'altro, non avevi dato, avanti, boh, un abbrutto. O lo fa vedere nessuno, fa vedere il trucco. Dai, capà, non ti preoccupare. Ui. Vabbè, dai. Ah, e tu cosa dici? Ah, boh. Io a Graziano sono cusuro che... No, quando si porta si intende male. E ne dirò conto. Io che ti piace fa quanto ti credi, mi. E fra me ne so. Ma che si muove dai rocchi? Tu pensi che io mi muovo dai rocchi? Oh, la capisci? Vai, ma chi? Ehi, te lo mando a Tore. Non si muove Giulio dai chi, perché se c'è fuori fa freddo, invece in via Giulio va a casa, va, se casa di me. Se tu vuoi andare a fare dai chi a cucina. Infatti, dai rocchi lo abbiamo risolto, posso fare? È un piatto. E dove è l'ubbiato, ma chi? Infatti, è una ragione c'è un poco con l'ubbiato, mi sa dizzi. Già non credo, già. E cosa vuoi fare? Io mi manca poco, pure, mi. Sono già all'otto, manco 25, sicché. Mi manca poco, mi. E no, una ventina di minuti ancora, penso. 20, 25, e siamo a dama. E infatti, che se la arrivi, come stiamo a partire. Ma che prima bisogna prendere la medicina e dopo bisogna azzinare. È ovvio, no? Se manca il teatro, bisogna fare proprio di così. Oh, ma allora vabbè, ma ci ho mangiato una quindicina di ricotti. Quando l'ho leccato, Dottore. Ma Messenger non ce l'hai, perché ce l'ho su WhatsApp, su Messenger. Sì che ce l'ho, cosa l'ho? Manda, manda. Se lo sai fa, manda a me, lui aprirà giù io, mi hai abbetto sul telefono. Non ti credi che sia come te, che sempre con un telefono a capo a terra. Sto guardando se ti trovo, forse non ci sei qua. Ah va, vai. Mandalo, già ci sono, mandalo. Bubu. E se no vai all'università e impari a trattare un telefonino. Ah, Otto, a te ne immagineggi. Prima si vanta che manda, poi lo fai buono. Graziano, Graziano, bubu. Catta, non te ne fai la vergogna. Vabbè, spari, te lo mando, là, va, devo fare cosa, e sto chiudendo, là. Ciao Giulio, ciao Tore, ciao Bacchigio, ciao chi è in ascolto, a domani là, ciao! Ok, ciao Grazia, ci sentiamo alle prossime, dai! Ok! Ok, ciao Graziano, buona serata, saluto al Correa, ci sentiamo domani se coincide, vai vai, Giulio vai! L'ho già salutato, ciao Grazia! Forse non lo so se mi ha sentito. Ciao, grazie, a domani, dai. Ci sentiamo, vai Tore. Ciao! Sì, ciao, grazie, ciao. Ok. Andà bene, allora, Bacchi. Sì, allora, accettando che arrivi l'ora del merendero, poi si via. E poi ci pensiamo domani. Aspettando anche se entrava Marino. Marino entra sempre all'ora dei cookie, ma non si sente. Oggi è il compleanno suo, di Marino. Sì, Antonello, ciao Antonello. Ciao, salutoni a tutti. Ciao Antonello, buona serata. Perché sei il rauco, il freddo hai preso. Sì, sono anche raffreddato se per questo. Ho preso appena di freddo. Comunque salutoni a tutti, ben scucitti. Almeno ti ascolto adesso con col cavo nuovo. Prima era col cavo vecchio, è un casino. Ah, capito, capito. Tutto nuovo. Tu te lo puoi permettere che ci sono i petrodollari. Capito, hai giù? C'è i petrodollari, Marino. Vabbè. Se ce li ha vuol dire che se li ha meritati. Lasciamolo fare, lasciamolo vivere anche a lui. Oh, Antonio, anche a te l'ho mandato quell'uomo tutto snodato. Mi sembra che l'ho mandato anche a te. L'avevo visto, infatti. Non so come abbia fatto a fare contorsionista a quello, la verità si dica. Sembrava senza un braccio, sembrava, ma con la gallina è così. Ma non l'hai visto camminando con le braccia per terra e con le gambe all'indietro, all'inverso, e salendo anche le scale? Io non so come faceva questo. È tutto un caso, deve essere. È agile come le scimmie, deve essere. Se lo facciamo noi ci tronchiamo in due, ma quello deve essere che è agile come le scimmie. Sì, caspita, ma l'anima dell'agilità, non lo so io, caspita, quello lì deve essere che è condannato, uno a uno, le hanno spezzato le ossa, le hanno spezzato, o le hanno sostituite, le hanno messe di gomma, le hanno messe, e allora è in grado di fare tutto quel contusionismo, una cosa impressionante, raga. Vai Tore! Dai dai, tutto abbiamo cambiato, Antonè. Piano piano. Visto, così bisogna fare. Se non si giamba cuscino, non ciambi nuda. Vero, Bacchi? Quelli li rompono da piccolini, li rompono. Sono rotti da piccolini, sono rotti. Dunque, adesso non se ne accorgono neanche. Sono tutti quanti snodati. Quelli se sono le molle dentro. Di gomma sono fatte dei Bacchi. Di gomma quello è fatto. Caspita, non dico io. Di piegarsi una persona, ma che si piega in quel modo, una cosa, guarda, meglio di quelli del circo, secondo me, perché questo si muoveva in una maniera tutta particolare che non ho mai visto. Ma sono gente da circo, capito, gente che ha lavorato nel circo, non aveva fatto oggi per prima volta, quelli sono da piccolini, si è allevati così. Sì, sicuramente, quello sì, l'allenamento l'hanno fatto da quando sono nati, anzi da quando erano in grembo alla madre ancora, nel grembo della madre, allora era già l'allenamento, erano caspita, però guarda, a vederlo è anche impressionante, nel senso che è possibile che una persona riesca a fare tutte quei movimenti col corpo, guarda. È una cosa, guarda, veramente. Adesso vabbè, non so come descriverti, vabbè, se potrei anche mandare tramite WhatsApp, ma comunque avassiamo al baracchino, poi ne riparleremo. Vai Tone! Sì. Io mi sono capito di un telegiornale, saggio, di Rai 3. Non è poco di incidenti. Certo, bebè. Vabbè, mangiano siete. E il governo come è messo? Niente hanno detto, hanno deciso. No, ancora no, non hanno deciso nulla, no, ancora. Adesso stanno chiacchierando, discutendo per dividersi la poltrona più comoda. Maledetta. Vai Antonello Pomponio. Ehi, lasciali fare questi politici. Aspetta che c'era qualcuno che stava parlando lo sotto, avanti. Sei gettiti giù. Uiuiuia. Vero, signor Bacchi? Vero, tutto vero. La tosse. No, volevo sentire Antonello Pomponio come mi sta ascoltando lì in cima alla città. Antonello, come mi ascolti in cima? Segnale, non ce n'è, ma la radio è uno e mezzo, non di più. Ti ascolto basso, dovresti essere molto ma molto più alto come segnale. Dovresti metterti un'antenna come si deve. Come segnale sono basso. Sei basso sì. Dovresti mettere una bella antenna tu lì a casa tua. Se la buschi una. Ce l'ho la bella antenna, questo è un altro giocattolo che ho. Questo è un giocattolo che sto usando. Se è un giocattolo già va bene. Pensavo che con l'antenna esterna. E con l'antenna esterna giocattolo però. In miniatura. Ah, già ti sento perlomeno. Già va bene. Miniatura. Avanti giù. Ok Bacchi, ma io ti sento benissimo, non bene, non benissimo, guarda. Come ti sento in 27, la stessa cosa. Per cui, non vabbè, lui è più lontano, molto più lontano, fra me e te c'è poca distanza e poi siamo sempre all'esterno. A chi? Io se li butti, tu lì, alla te dolce, ozona, dai. Ed ecco che ci sono. C'è tutto l'esterno della città praticamente, ci sentiamo per quello molto bene. Ma io ti sento benissimo, chiarissimo, perfetto, senza un filo di QRM, niente, proprio non so nemmeno come descriverlo, perché di più non è possibile, guarda. E questa è quella piccolina che avevo fatto, capito? Quella piccolina che avevo costruito. Ne ho fatta con una più piccola ancora, sempre le invenzioni che nascono. Hai fatto bene, quello da 18 centimetri hai fatto. 18-25. Va benissimo, te l'ha già detto, va benissimo. Se fai anche 18, anche quella centrale va bene ugualmente, non vedo problemi, perché va benissimo, veramente. Io ci sento a meraviglia, poi naturalmente dipende sempre anche dalla posizione di ognuno di noi, perché è così. Questa frequenza è così, è un po' strana. Vai Tone! Sì, infatti. Ma chi ti ascolta? Ti ascolta, chi non ti ascolta, pazienza. Ah, lo sentiamo, Bacchi, è fortissimo qua. E forse siamo uno vicino all'altro, gli ero un grido. Antonello sei nasso, Antonello arrivava benissimo lo stesso. E Giulio arriva un po' così. Un po' come senti a me. La frequenza è un po' maledetta questa, e allora ci possono essere anche problemi. Aspetta, io sono in direttiva puntata a Monte Oro, però mi tenete conto quello, quindi se dovessi girare l'antenna e puntarla lì alla teloce vi piglio in pieno. Sì, è possibile, attualmente. Tu pensa che io a Bacchisio lo sento come sento a te, io a te ti sento perfettamente bene e lo sento così, tu mi stai dicendo con la direttiva, ma più o meno sei già nella mia direzione. Se punti a Monte Oro più o meno sei nella mia direzione, non proprio centrato, ma ad ogni modo ci sei. Sono puntato a ripetitore, proprio in verticale, puntato a ripetitore, quindi becco in pieno quella zona lì. Sento addirittura i traghetti che sono lì a Loghero, figurati tu da qui da casa. se la giro poco poco, la punto verso il ghero, sento tutti i traghetti, sento. Quando parlano i portatili dei... che fanno dal traghetto giù al traghetto. Io so che lo fanno anche a Prottore, se c'hanno i PMR anche lì. Sì, e beh certo, da quella posizione, poi con quel tipo di antenna, già lo credo, caspita, tu li acchiappi tutti, certo che li acchiappi. Ma tanto per tenere conto, come ne arrivi tu? Lo so come ti arrivo io, ma suppongo abbastanza bene. E né più né meno così arrivi tu, anzi meglio di bene. Fondo scala arrivi tu, sì, fondo scala tu, fondo scala Tore, io Maria arriva a 9, quindi Luca a volte arriva anche a 9.20, dipende da che punto si mette, però ascolta tutti, perlomeno io. Ho preso quelli, i portatili che sono lì da un euro, lì a Perdanieta, che ce l'ho di fronte. Ecco, città mercato, hai capito? L'hai messa in verticale, in pratica è messa omnidirezionale. Se la metto in orizzontale è tutta un'altra cosa. Se dovessi puntare a Genova, sento anche quelli di Genova, per dire. O in Corsica, parlo con i francesi, ma non me ne frega nulla. Quella cosa ce l'aveva Pier Giacomo una volta. C'erano una 22 elementi, la mia era una 10 elementi. Capito? La 22 elementi, quella sì che è un'antenna come si deve. Ma è la U. L'altezza è fondamentale, Antonio, l'altezza è fondamentale. Tu pensa che io ho parlato tempo fa con la Corsica, con Sandro, e te lo può confermare lui. Per cui... E io non è che babbiara le cose, è mai una questione di preparazione, evidentemente, non lo so. Però lui era proprio nella punta più alta della Corsica, e in macchina, che è andato lì per lavoro, e ci siamo collegati. E non è facile collegarsi col PMR, con la Corsica, o altro lì. E c'era anche un'altra persona, se ricordo bene, adesso non mi ricordo molto bene, ma mi sembra che c'era quello di Usilo anche, che anche lui sentiva a Sandro mentre si trovava in Corsica. Ho capito. Sì, vabbè, la Corsica noi l'abbiamo sempre sentita, anche 27. È che non c'è nessuno lì, secondo in che punto è. Perché una volta parlavano due ragazze, mi ricordo, facevano la gara con Vittorio, con Martina si chiamava, se non mi ricordo male. E parlavano, la sentivo anch'io da Berizzetto, si parlava tutti i giorni con questi della Corsica. Poi sono spariti tutti. Io l'unica cosa quando sono andato in Corsica, la verità è ho visto una direttiva e basta, non ho visto nient'altro. Messa in una campagna e proprio fuori del paese, paese, cittadina, dopo il porto, là. Ok, no, ma io stavo parlando col PMR lì, sto parlando del PMR, con Sandro ho parlato in PMR, io, capito? Con la baracchino ci parlavo sempre io con l'acustica, anche dalla macchina, con Antonio Felice, Corsica 1, se te lo ricordi, tu che sei un vecchio cimbiglia te lo ricorderai, quando era Calvì, poi è passato a Coenza, è passato, aveva l'hotel Sole e Monti, infatti mi aveva anche invitato, che poi tra l'altro non ci sono mai andato io. Mi dice vieni qua, ti passo una settimana di ferie nel mio hotel, e no, non mi sono mai andato, figurati. Capito Antonio? Io sto parlando del PMR, con Sandro, col PMR, anche col baracchino l'avevo collegato, ma col PMR ugualmente bene. Sì, ma anche il PMR ci arriviamo anche negli PD per questo, ma Sardino, se sei in alto arrivi dove vuoi. Quindi purtroppo guarda che cosa, Graziano arriva vicino a Olbia il 27, anche Gio Maria, li hanno sentiti vicino a Olbia, da Golfo Lancia li hanno sentiti, tu figurati, il 27, solamente il 27. Sì, quello sì, beh certo, è sempre una questione di posizione. Olbia, all'ingresso di Olbia, quando c'era quel famoso Cibiglia, adesso non so se c'è ancora, c'ero arrivato anch'io a Olbia, però eravamo in banda laterale, eravamo. Va bene, prendi, fai girare, dai, non facciamo ping pong fra me e te, Antonio. Fai girare tu, vai. Ehi, avanti, Sabato. Ehi, cosa, Olbia, ci sono arrivato, anch'io ci sono arrivato. A Olbia. Anche ai presi di cosa, Golfaranci, anche a cosa, a Nuoro, ma non ho sentito. Eh beh, quelle due vie sono aperte. Allora, quello che c'è vicino tu, vicino a te, Mario Mansell. Mario con la Mantova 5 parlava tranquillamente, arrivava sino a Nuoro, ma com'era, eccetera, eccetera. Accompagnava Gigi Vulcano, quando faceva il camionista ogni sera. E quando poi ha messo la Mantova Turbo non ci arrivava più. Perché, boh, non so perché. Voleva la. In pratica la Mantova 5 usciva molto, ma molto meglio, ce l'avevi anche tu. Da lì del punto dove sei è molto aperto, capito? È una zona buona dove sei tu. Io l'ho fatta con il coso, con la Mantova 1 l'ho fatta io, con quella che c'avevo su che dopo in Farada, con quella sono arrivata io. Ehi, è stato ciucuccio. E infatti, già lo so, Mario arrivava tranquillamente da lì, da lì. Addirittura un giorno sono andato con Franco California lì dopo Castel Sardo, arrivava benissimo Mario col Kenwood che c'avevo io, col mio in pratica, messo a casa sua, perché allora abitavo quel periodo lì a casa sua e lo sentivo 9:20 lì dopo Castel Sardo, figurati. Mi ha accompagnato fino alla Valle Dura, dopodiché l'ho giù messo, nella sala nuova. E la zona buona dove sei tu, anche quella di Gio Maria è buona, per certo Sardegna invece i punti, lì dove c'è Montetinino, lì c'è un'apertura allucinante, c'è arrivi sino alla Maddalena, per dire, anche con 15 watt, 20 watt arrivi tranquillamente alla Maddalena. Io ci sono arrivato col baracchino alla Maddalena, però non sentivo lui, lo sentivo, ma aveva fatto la ponte, come si chiama? Gianni si trovava all'imbara, lui era lì a tempio, vicino, sotto l'imbara era, dai, e stavo parlando con lui, con Gianni, quello che era diventato radioamatore, non lo ricordo, adesso non mi ricordo il suo nome nativo, e mi ha fatto la ponte e mi diceva, si sente alla Maddalena un tipo che era addirittura in macchina, mentre io a lui non lo sentivo. E mi aveva fatto la ponte questo Gianni, Antonio, non so, non me lo ricordo come si chiama di nome nativo. Gianni non è solo, sarà. Gianni, guarda che parlava sempre con quello di Usilo, parlava, che abitava a Porto Torres ultimamente. Ah, ho capito, chi stai parlando? Non è Gianni non è solo, è Gianni Dinamite. Bravo, Gianni Dinamite, sì, Gianni Dinamite. Ero con lui si trovava sotto l'imbara, si trovava, e stavo parlando con lui a tempio, no? E poi ha detto, ha chiesto se mi sentiva, ha detto sì, lo sento, ma io non sento a lui, e quello è il problema, Antonio, figurati. E vabbè, dai, è strano, comunque un giorno di preparazione sono arrivato addirittura in Florida, in America, non è che mi dà niente, non è come parlare in Europa, no, addirittura in America, ma c'è la preparazione al giorno, con la Mantova Turbo, quando avevo la Mantova Turbo, anzi no, non era la Mantova Turbo, la Stella la avevo 16 radiali, che poi ce ne mancavano 4-5 già in quel periodo, capito? Va bene, facciamo girare per Bacchisio. Ehi, Bacchisio mi stava ascoltando volentieri, adesso però Bacchisio se... Ci dovrebbe essere anche Luca. Fatta l'ora del merendero. Bene, ciao Giulio, buona serata, grazie della compagnia, a risentirci al più presto. Ciao anche Antonello, buona serata anche per lui, anche per Tore, buona serata anche per te. Buona carica a tutte e tre, Bacchisio vi saluta e passa in QRT, causa merendero. Vai vai, riprendi Antonello. Ehi, ciao, ci sentiamo Bacchi, alle prossime buon quality, buon tutto. Ci dovrebbe essere anche Luca, avanti Luca. Luca è sparito, avanti Salvatore e poi fai girare tu per chi è rimasto. Ok, dai, riprendo io. Vi saluto anch'io, che mi so ciamendi. Ok, ciao Bacchisio, ci sentiamo domani se coincide. Ok, ciao Giulio e ciao Antonello. Ciao a chi è in ascolto. Ok, ciao a tutti. Ok, ciao Tom, ciao Bacchisio. Salutoni, a domani se coincide, dai, alle prossime. Grazie a tutti per la chiacchierata, anche io chiudo per la cena, dai. Ciao Antonello, a domani, ciao, riprendi. Ciao, ciao Giulio, ciao dottore. Sì, salutoni a tutti. Statevi bene, buona cena, alle prossime allora, ok. Davvero. Buono questo vino rosso, mio, buono, buono. È a te che lo stai bevendo. Buono veramente, guarda, doc, vino doc, rosso. Non è di quello secco, è quello nemmeno dolce, non ha via di mezzo, dai. Rosso cosa, eh? Rosso bisello. Perché dove sei al circolo, sei o a casa? A casa. Ah, no, io c'ho la birra, il vino proprio non ho toccato per niente. Tu? Sono parecchio che non ne prendo vino. Una volta mi hanno pigliato 5 litri, mi sono durati più di un mese. No, non mi chiede a pranzo, non mi chiede a cena, va bene. C'è il vino buono, mi se la faccio un giretto. C'è quello del Lidl, come si dice, quello frizzante, c'ha un nome amabile, mi pare si chiama. Quello è buono, mi leggero leggero, e ti fa digerire. Questo è buono lo stesso, leggero leggero. Io l'unica cosa che mi dà fastidio è la cosa adesso, l'acqua. Ho preso quell'acqua dello spì, quella gasata, mi... c'ho un dolore all'inguine, c'ho... evidentemente c'è roba di calcare, qualcosa del genere, usare il zocco. Devi prendere quella in bottiglia naturale, quella più buona. Mi piace più che altro la gasata, mi piace la fanculo, infatti mi ha gonfiato più che altro la pancia. È peggio della birra quando la bevi, ti gonfia lo stomaco. Adesso già bevo acqua normale, già ce l'ho, quella... Quercetta, boschetta, come lo chiama? Ah, sì, sì. Quercetta, quella beviamo noi. Ehi, vabbè. Dicono che dalle fonti da San Giorgio quell'acqua arriva, Boh, la verità non te lo so dire. Fatto sta che... mi pare che aveva appeso... cosa, a Banova. La verità è che un sacco di gente prende e ne sta catturato, è inutile usare quell'acqua. Per cucinare non la puoi usare solo per lavare il sedere, infatti la luce e basta, per lavare i letti ma con bene va, perché è tutta piena di microbi, quindi a un certo punto conviene più lavarsi i denti con la boschetta che con la cerquetta. Ma quale? Ho detto l'acqua del comune, non so, è un casino usarla, un sacco di gente si sta incazzando. A quanto sembra se ne vogliono eliminare la Banoa, hai capito? Perché sono stufi, un mese sì, un mese no, è sempre ai stessi livelli, sempre piena di immondezza. A chi è vai chissà, ma carità, è no che è gialla. È appunto per quello, un sacco di gente vuole chiudere tutto, non vuole più sapere di quell'acqua, non vuole più pagare nulla, hai capito? Tutti si stanno, se dovete vedere da qui, da Ruspin, tutti i cavelli, tutti i giorni, più che pieni di acqua non sono. 15 per 20 cosi di acqua. 20 cattoni d'acqua. Ma che schifo. Io mi ricordo negli 70-80 l'acqua era con la varicchina, però era. Non c'aveva nessun problema, era sempre acqua buona. Ma quando c'è la Banoa non ne serve più a nulla. Più che inquinata non è. Sì, ma ci poteva anche bella quel rubinetto. Adesso uno schifo. Uno schifo. E io bevo un vino a pompo, e se ne affutti. Un bicchierino, senza esagerare. E se ne affutti. E le palle brutte ce la bisognetti. Vabbè, io non mi vorrei a posto di quelli che vanno a bere il caffè nel bar, che bevono il caffè che è pieno di alluminio. Dove pompo, l'ho capito? Ho detto mi vorrei a posto di quelli che bevono il caffè la mattina presto, il caffè pieno di alluminio, di cloro, di tutto c'è in mezzo. Ma, perché dai. Uno schifo è diventato Sassari qua, siamo a livelli di... cos'era, mi sembra Nuoro, mi pare che... c'avevo l'acqua della fonte e l'acqua dell'entrata che era il rubinetto era inquinata. Infatti parecchia gente voleva fare i pozzi in casa sua, almeno dice c'ho acqua buona. Lo so. Qua non è, alla fine se ne fregano, La parola si prende un posto di dinaro, ma un pacco di dinaro vero, ma un bel di soldi, chi mi so, miliardi mi so, ma datti una cosa, leva brutta. Io so che l'acqua è sporca, ma sono d'accordo, vabbè, noi abbiamo una cisterna qui, e quando faccio scendere l'acqua che entra allo scaldabagno piccolino, è bianca di colore, tu figurati. Già se la vedi niente, se la puttana stai a me. Non ho capito. Se la bevono loro. Ah, vabbè, mica la bevo io, se la bevo lo sto bevendo l'acqua a me, l'acqua accetta, quella frizzante, e basta. Mi sembra tu un caro in culo. Aspetta che vado a mettere una cosa dentro la fornetta a cucinare, già arrivo subito.